riunione risulta particolarmente azzeccata. La riunione è stata convocata sulla situazione iraniana e proprio oggi la situazione iraniana è esplosa. Quando è successo con l'Iran, scusate, con l'Ucraina, avevamo fatto il giorno prima un'assemblea e l'indomani abbiamo visto quello che è successo. Noi l'avevamo pensata prima, quindi, perché la situazione ormai... Per noi va avanti dal 79, diciamo. Grande slancio del popolo iraniano che ha abbattuto la monarchia dello Shah, potenzialmente ha avuto come sbocco l'istituzione di un'altra forma politica che complessivamente era meglio perderli che trovarli. Io ricordo nel 79, al solito c'erano parecchie persone che non avevano capito nulla di quello che stava succedendo in Iran. Quotidiano dei lavoratori, all'epoca giornale ufficiale di Avanguardia Operaia, poi di Democrazia Proletaria, finché è durato, titolava "Viva Khomeini che ritorna". Quindi c'era quasi una identificazione tattica e strategica con la possibilità che i mullah riuscissero ad aprire la strada, non si sa bene verso che cosa. Sono 50 anni che il popolo iraniano vive oppresso da questo stivale di ferro, e sono 50 anni che ogni 3x2 il popolo iraniano cerca di ribellarsi senza riuscire complessivamente ad oggi a trovare una soluzione. Ha subito recentemente il bombardamento sui siti nucleari e oggi ha subito questa aggressione, che potenzialmente a cosa mira? Mira a distruggere, dicono, il regime. Ma l'obiettivo fondamentale è l'oro nero. Lì di oro nero ce n'è parecchio, e dal Venezuela all'Iran il monopolio petrolifero con le riserve che hanno gli Stati Uniti è regolarmente assicurato. Di questo noi oggi parliamo. Ne parliamo con i... Scusate, ma... 5? Non è vero. Col collettivo iraniano dei compagni presenti in Italia da parecchi anni. Ne parliamo col compagno Grisolia della Direzione Nazionale del Partito Comunista dei Lavoratori, e ne parliamo con tutti voi. Se la compagna Ilaria Salis vuol fare un intervento, ben venga il suo intervento. Cominciamo subito dando la parola al compagno Grisolia. Va bene. Vabbè, resto seduto, non è un grande problema. Allora, come ha già detto Natale, vi garantisco che non ci ha chiamato Trump per fissare questa riunione, però le condizioni si stavano aggravando. Devo dire, e mi scuso per un po' la voce che ho in questo momento, devo dire che noi pensavamo una cosa un pochino più generale. Se vedete il volantino, era un po' sulla questione del Medio Oriente. Ne parleremo un poco, ma è chiaro che con quello che è successo oggi centriamo la questione sul Iran. Già ha detto il compagno Natale alcune cose fondamentali. Il trumpismo cerca, dopo anni di difficoltà dell'imperialismo americano di fronte allo sviluppo, la nascita prima e poi lo sviluppo di due nuovi imperialismi, cioè quello cinese e quello russo, sulle rovine dei regimi stalinisti, ma a base di proprietà socializzata dei mezzi di produzione, che sono accadute nel 89 e che, per quanto riguarda la Russia, per un momento è sembrato tale da porla in posizione di subordinazione agli Stati Uniti. Invece poi con Putin è cambiato tutto il quadro, fino alla invasione della Ucraina, che dir si voglia, nel 2022, quattro anni fa. E in questo senso ha preso una politica che da un lato si maschera come politica di risoluzione dei conflitti, dall'altro è una politica bellicista quant'altro mai. Naturalmente c'ha un elemento di furbizia, potremmo dire, che non so se deriva più da Trump o dai suoi due dioscuri, Vance e Rubio, cioè quello di non cercare necessariamente il cambio in un regime apertamente pro-statunitense di base, ma cercare di trovare il modo di avere regimi pro-statunitensi mantenendo un equilibrio interno a questi paesi, tirando la lezione dell'Iraq. Qual è stata la lezione dell'Iraq per l'imperialismo americano? L'imperialismo americano è andato, ha fatto quello che ha fatto, non solo l'imperialismo americano, anche l'imperialismo italiano. Ricordo che noi fummo posti sotto attacco per le frasi del nostro compagno Marco Ferrando 20 anni fa sul fatto che era legittimo che i partigiani, per quanto islamici, in larga maggioranza iraniani, sparassero sui soldati italiani che erano lì per fare la guerra, e col risultato che, contrariamente a qualche stupidaggine, perché a volte bisogna essere, appunto, da marxisti, essere dialettici e capire le cose, che tanti particolarmente campisti hanno detto, in Iraq hanno messo il governo dei fantocci, seppure trovato un governo pro-islamico, pro-iraniano, al potere. Per cui gli Stati Uniti in Iraq hanno perso due volte, in un certo senso, hanno vinto ovviamente contro Saddam, ma hanno perso due volte. Primo, perché non sono riusciti a stabilizzare un regime a loro favorevole. E secondo, perché quel regime che si è creato è piuttosto filo-iraniano. Tanto è vero che oggi, se avete letto, avete visto già la televisione, gli Stati Uniti hanno detto non bombarderemo l'Iraq. Ma cosa vuol dire? Perché se fosse un paese pro-americano, non è che ha detto non bombarderemo gli Emirati Arabi o l'Arabia Saudita, è ovvio, perché deve dirlo, sono suoi, ma perché l'Iraq è un alleato, il governo, salvo i curdi, che è un'altra questione, è un alleato sostanziale del regime iraniano. Allora, Trump vuole evitare questa situazione. Trump, ripeto, quelli più intelligenti che stanno intorno a loro, tutti reazionarissimi ovviamente, cercando di trovare nei regimi di abbattere, una volta si sarebbe detto quisling, non so quanti, soprattutto i giovani, conoscono il termine, era il capo del partito fascista norvegese che i nazisti misero lì. Ma quisling nemmeno, perché è un qualcosa di peggio o di più sottile, di mettere all'interno del regime esistente, di trovare gli alleati da utilizzare. E questo che sta facendo in Venezuela, perché appunto alla faccia di chi diceva che il Venezuela era un regime socialista, rivoluzionario, eccetera, appena t'hanno baccato Maduro, che certo non era né socialista né rivoluzionario, anche se ogni tanto diceva Trotsky quanto è bello, perché da giovane era in un gruppo a metà, una specie di avanguardia operaia minima del Venezuela, a metà tra maoisti ma antistalinisti, era certamente un Bonaparte dittatoriale campista per se stesso. Invece oggi le fregano, e la vicepresidente, che viene più giovane di lui ma viene dallo stesso gruppo tra l'altro, quindi origini di estrema sinistra, oggi fa l'agente degli americani, e con lui e con lei tutto il regime. Non voglio dilungarmi perché sono tentato. Il famoso Cabello, che era l'ala dura, che avrebbe mobilitato le masse fino all'ultimo uomo, nessuno si arrende, moriremo tutti per salvare la patria, ha detto basta che a me non mi toccate il posto da capo dell'esercito, per me va bene anche se il petrolio è in mano agli americani. Anche qui una piccola conferma delle posizioni che noi e i nostri compagni internazionali, ricordo sempre il PCL e la sezione italiana della Lega Internazionale Socialista, che raccoglie i migliori marxisti rivoluzionari nel mondo, compreso in Venezuela Marea Socialista. Ecco, noi dicevamo giustamente che questo non è per niente un regime, un governo rivoluzionario, è un governo bonapartista di sinistra e che poi al momento opportuno, certo, così non lo pensavamo neanche noi, perché non voglio dire che abbiamo la palla di cristallo o che siccome siamo marxisti allora abbiamo capito tutto, anche Marx ogni tanto sbagliava, figurarsi noi. Però diciamo che fosse così, no, ma che insomma potesse avvenire qualcosa di compromissorio è certamente evidente. Ora, io credo, poi potrò essere smentito, che in Iran la questione è un pochino più complicata. E forse è vero che, come hanno detto dei giornali israeliani, ma pare smentiti successivamente, che l'obiettivo era uccidere Khamenei, come in Venezuela era, in questo caso, rapire Maduro, lì era uccidere, perché questo apre le contraddizioni tra chi vuole cedere e chi non vuole cedere. Ora, quindi, certamente la cosa è più difficile, ed è possibile che alla fine l'imperialismo si accontenti solo di un accordo sul nucleare e non di controllare il petrolio anche lì, che è il suo obiettivo effettivamente, come diceva Natale, essenziale, e che del resto spiega perché Trump rompe le scatole, scusate il termine, non è molto marxista, ma insomma anche Marx usava i termini forti di tanto in tanto, al Canada, perché il Canada è pieno di petrolio. Se lui riuscisse ad avere il Canada come 51, pare che 51esimo, uno stato che ha 40 milioni di abitanti, almeno avesse detto, mi pare, le 11 stati, perché anche il Canada è uno stato federale, 11 mi pare o 12, diventano gli ulteriori 12 stati degli Stati Uniti. No, ho detto uno, perché già tanto. E la Groenlandia, ecco, perché vorrebbe avere il quadro possibile, anche perché c'è un elemento che è stato ricordato. Oggi io ero in una riunione internazionale nostra della LIT, ma con un altro orecchio seguivo un po' ogni tanto le notizie dei giornali, da un bravo, non so, sarà reazionario, non lo so, borghese, insomma, un economista molto serio, che ha ricordato che le terre rare sono principalmente in mano ai cinesi, non solo negli altri paesi, ma anche in Cina è principale, e quindi il rilancio del petrolio non è solo perché questo qui è anti-ecologico, perché se no facciamo, lo sarà anche, ma perché riportare sul terreno dei combustibili fossili rafforza l'imperialismo americano rispetto economicamente rispetto all'imperialismo cinese, in una situazione in cui a oggi né la Russia né la Cina sono in grado di competere militarmente con l'imperialismo americano. Possono cercare regionalmente, come ha fatto la Russia con l'Ucraina, ma non possono fare quello equivalente a quello che fa l'imperialismo americano. Allora noi quindi credo che in questo terreno, come abbiamo detto nel nostro volantino appena fatto, che è stato dato a alcuni compagni, noi siamo nell'obbligo di difendere l'Iran dall'imperialismo. Obbligo al di là del regime, perché questo deve essere chiaro. L'errore che commette in Italia, perché c'è un provincialismo italiano che è terribile rispetto a altri paesi, terribile, che deriva, a nostro giudizio, dalla crisi del marxismo rivoluzionario nel 68, che mentre negli altri paesi il maoismo contava poco o niente, o si dissolveva come in Francia e in Gran Bretagna, in Italia invece ha dominato. Per cui c'è sempre la questione, se sostiene un paese, è un po' devi sostenere il regime, non c'è nessun terreno su cui noi dobbiamo accettare questo tipo di concetto. Come i trotskisti sostennero la Cina contro il Giappone, anche se c'era Chiang Kai-shek, noi dobbiamo sostenere l'Iran contro l'imperialismo americano, nonostante e contro e nonostante la presenza del regime degli Ayatollah e anche in lotta totale contro esso. Allora, la lotta può avvenire centrando su due elementi. Da un lato è quello che una volta si chiamava la linea Clemenceau. Cioè Clemenceau era un politico francese che nella prima guerra mondiale fece guerra al primo governo di coalizione, che erano tutti i socialisti pure, francese, dicendo non fa, era, lui veniva da, anche lui dall'estrema sinistra, sia pure non proprio socialista, non fa bene la guerra, io pongo il problema di fare una guerra meglio. Questo può essere in alcune situazioni la linea del dire, per difendere, che ne so, il Brasile domani da una guerra, cioè bisogna che caschi il governo che c'è, ci siamo noi che sappiamo fare una politica di difesa, mobilitando le masse e via dicendo. L'altra è quella di dire noi approfittiamo in ogni modo delle contraddizioni della guerra per abbattere i regimi esistenti. Chiunque dica che siccome c'è una guerra difensiva, la lotta contro il regime esistente deve cessare, non è un marxista rivoluzionario, non è la nostra posizione. Certo, lo so che è molto complicato, ma come diceva una volta Lenin, no? Dice, gli schematici pensano che la rivoluzione, ecco, qui da un lato c'è l'esercito proletario, dall'altro l'esercito borghese, tutto è chiaro e tutto è netto. Dice, non è così, parlava dell'Irlanda, no? Che ci aveva rispetto a quelli che sull'Ucraina non capiscono, secondo noi, un cavolo della situazione. E gli irlandesi c'avevano le armi tedesche. Allora Lenin contraddiceva il suo disfattismo bilaterale dicendo bisogna sostenere gli irlandesi anche se hanno le armi dall'imperialismo tedesco. No, perché su quel terreno l'elemento essenziale non era le armi dei tedeschi, ma era la lotta per l'autodeterminazione e l'indipendenza degli irlandesi. Veniamo però, io ho fatto un quadro molto ampio per vedere di qualificare il senso della nostra proposta. Noi, ricordava il compagno Natale, abbiamo una lunga tradizione sulla questione politica, sulla questione iraniana, e abbiamo alcune cose caratteristiche rispetto all'estrema sinistra, ma anche rispetto, devo dire, purtroppo alla maggioranza di coloro che all'epoca si richiamavano al trotskismo. Diciamo che a parte noi e i compagni qui presenti della Lega Spartachista, anche se non ci voleva riconoscere allora che avevamo posizione simile, eravamo quelli che dicevamo no a Khomeini fin dall'inizio. Come nel volantino storico che ho portato, Iran libero, Iran rosso. Anche sapendo, perché non è solo perché eravamo socialisti, che in ogni modo è un fatto, perché se vuoi la rivoluzione non è che puoi fermarti a metà, ma perché non contrapporsi fin dall'inizio a Khomeini e agli islamici significava distruggere anche gli elementi democratici della rivoluzione e portare a una nuova dittatura. E devo riconoscere, a volte mi commuovo ricordandolo, che i nostri compagni iraniani, in larga maggioranza, che aveva il Partito Socialista dei Lavoratori, non era un grande partito, però alle elezioni presidenziali dell'80, se non sbaglio, prese 300.000 voti. Le uniche libere veramente, quelle presidenziali, no? Quando gli stalinisti e tutti appoggiavano il liberale, che poi infatti Khomeini cacciò Banisadr, scusate il nome, mi era sfuggito in un attimo. E oggi noi diciamo lo stesso, il fronte unico può essersi nelle strade, ma non per dire a noi basta che arrivi chiunque. Né Shah né Mullah oggi come nel 1979, per un'alternativa socialista, perché altrimenti avremo, come appunto diceva Trotsky quando gli imperialisti dicevano di lottare per la democrazia, avremo un altro dittatore, magari un po' più morbido, ma sostanzialmente più legato all'imperialismo, punto. E questa è la sostanza. Noi non vogliamo questo. E quindi la stessa rivoluzione democratica in un paese come l'Iran o via dicendo, o come in Palestina, è legata a un processo rivoluzionario socialista. E questo si vede, cerco di andare alla seconda parte perché ho già parlato abbastanza, in termini generali, questo si vede in tutta la questione mediorientale, in cui lì c'è stato un fallimento totale di tutte le forze controrivoluzionarie, riformiste, non parlo dei reazionari, quelli vabbè, d'accordo, ma perché non si ponevano da anni il problema del socialismo, o si adattavano a un socialismo nazionale, alla Nasser, alla Saddam Hussein, eccetera, eccetera, che poteva aver fatto molte nazionalizzazioni e fatto qualche misura socialistoide, ma che poi in fondo era un passaggio temporaneo verso un ristabilimento di un capitalismo più netto. Ricordiamoci che anche la Siria era così, e alla fine, prima della caduta di Assad, la famiglia Assad aveva metà del PIL iraniano era in mano alla famiglia Assad, peggio che la famiglia Agnelli allargata, che sono 200 in Italia, perché la gente non riconosce che si dividono i profitti di Stellantis, Exxon, eccetera, eccetera, lì erano meno di 200 che si dividevano metà del PIL iraniano. E in particolare questo vale per gli stalinisti in Iraq e in Iran, perché nell'immediato dopoguerra il Partito Comunista Iraniano contava 150.000 iscritti, e cosa strano, ho scoperto proprio recentemente che, come abbiamo noi come Partito Comunista dei Lavoratori, aveva due livelli di iscrizione: aderenti e militanti, quindi aveva 50.000 militanti e 100.000 aderenti. Cioè, una forza enorme, pensate, per la situazione. Però anche lì Stalin disse, l'accordo non si tocca, ci fu una repubblica sostenuta dai sovietici per un momento in Kurdistan nel 45-46, poi la lasciò perdere. E quello che fecero era appoggiare appunto i nazionalisti borghesi, che erano anche come il povero Mossadegh, che fu il primo ministro che nazionalizzò il petrolio nel 52, anche magari animati da buone intenzioni, ma che chiaramente non potevano scontrarsi realmente con lo Shah e l'imperialismo. Tant'è vero che questi gli fecero nel 53 un colpo di Stato, e Khomeini già fu un traditore, perché all'inizio aveva, rispetto al fatto che i monarchici, e scusate, gli islamici non vedevano tanto bene questo Shah occidentalizzante, e all'inizio diede un piccolo appoggio a Mossadegh. Però, e quindi la stupidità di chi non ne parlò negli anni 70 non si ricorda, tradirono quando vedero che Mossadegh era un nazionalista borghese, però laico, appoggiarono il colpo di Stato dell'imperialismo. Quindi c'è già una tradizione, ma gli stalinisti, tutti dietro questi, non capendo che l'imperialismo sarebbe intervenuto, e tu o fai la rivoluzione alla francese, non perché ci amiamo la ghigliottina, però perché sappiamo che o fai l'esercito del popolo, e anche un po' di ghigliottina purtroppo, oppure è chiaro che l'imperialismo vince, non c'è, e quindi non puoi appoggiarti ai piccolo borghesi. Ancora peggio in Iraq, dove il Partito Comunista Iracheno era un partito che aveva, probabilmente all'elezione avrebbe preso il 40-50% dei voti, era dominante nella popolazione sciita, aveva forti presenze nel Kurdistan, eccetera, eccetera. E una cosa uscì interessante in un piccolo giornale di un nostro vecchio amico che si chiama Moreno Pasquinelli, che ha lasciato i lidi marxisti per andare verso il populismo, ultracampista. Ma era riuscito a intervistare l'unico sopravvissuto del bureau politico, del Partito Comunista Iracheno nel 58, quando una rivoluzione di popolo fece cadere la monarchia, compreso il monarca trascinato morto per le strade di Baghdad. E nel 59, dopo un primo maggio che aveva visto mezzo milione di persone sotto le bandiere del Partito Comunista Iracheno a Baghdad, chiesero a Mosca, dissero: le masse sono con noi, l'esercito è metà con noi, i curdi ci appoggiano, possiamo fare la rivoluzione. E questo sopravvissuto disse no, Mosca disse no, perché noi non siamo per la rivoluzione socialista, siamo per la rivoluzione democratica, e quindi dovete appoggiare il generale più di sinistra, il quale dopo un poco cadde, e quello che venne dopo massacrò i comunisti, poi Saddam Hussein ne fece ancora di peggio in nome del socialismo nazionale contro i nemici appoggiati da letto. Del resto, la grande maggioranza della sinistra in Iran nel 79, salvo i nostri compagni del Partito Socialista dei Lavoratori, e poi purtroppo credo che si siano abbastanza dispersi, anche se conosciamo un compagno che vive in Italia, che vive, ce ne sono un po', i fedain del popolo minoranza, tutti dissero viva com'è, persino i mujahideen che oggi sono stati, cioè, viva Khomeini, tutti il Tudeh, che è il nome del partito delle masse, viva Khomeini. Allora, queste elezioni ci dicono che, per arrivare al senso della conclusione, poi ci sarà il dibattito e vediamo chi è d'accordo, chi ha dei dubbi, chi ha delle domande, eccetera. Per noi è proprio questo. Si è visto in Palestina con quello che è il sionismo, non ci fosse stato l'avvento della questione dell'Iran, oggi avrei parlato di più della storia del sionismo, cosa rappresentato, ma insomma la mostruosità che è e il ruolo internazionale mostruoso che ha almeno in Medio Oriente, ma non solo, perché sapete che si intromette dappertutto, persino in Irlanda del Nord sosteneva i gruppi anti-IRA. E il Mossad, in particolare in Medio Oriente e tutto. E dicevo, quello che è avvenuto in Palestina, dimostra che la soluzione per il Medio Oriente non può che essere una soluzione socialista, una soluzione di rivoluzione proletaria, quello per cui lì in Argentina abbiamo forze ben più significative, anche se ancora relativamente minori, ma con le poche forze che abbiamo in Libano e da qualche altra parte in Medio Oriente, come Lega Internazionale Socialista, noi lottiamo per costruire questa cosa, che del resto era la posizione della Quarta Nazionale Trotskista nel 48, la prospettiva è la rivoluzione proletaria nel Medio Oriente. E la risposta, rispondo già a una possibile obiezione, ma basterebbe la democrazia? Una risposta, scusatemi, cretina. Perché nessuno ha dimostrato che, fermandosi rispetto alla rivoluzione socialista, c'hai nemmeno la democrazia. È potuta venire col cosiddetto compromesso sociale nel 45 qui in Europa, perché i padroni avevano paura della rivoluzione. Stalin non la voleva, anche perché aveva paura di non controllarla, e quindi hanno fatto con un po' di concessioni, poche, perché non è che nelle fabbriche negli anni 50 c'era il socialismo, qualcuno sembra che chissà cosa ha portato la Costituzione italiana, figuriamoci. Ma insomma, con un certo compromesso, poi basato anche sul boom economico di quell'epoca, poteva. Ma in paesi subordinati questa ipotesi è molto difficile, per cui noi siamo per la rivoluzione socialista in questi paesi, perché siamo socialisti rivoluzionari, non siamo progressisti che dicono vabbè, se c'è il socialismo bene, se no chi se ne frega, non è la posizione dei marxisti, non è la posizione dei comunisti, non è la posizione internazionale comunista che diceva distinguiamoci sempre dai nazionalisti, anche quelli più radicali, perché noi siamo comunisti. Non è Chavez il nostro punto di riferimento, e neanche Ocalan, per dire, il nostro punto di riferimento è la dittatura del proletariato, il dominio del proletariato con i soviet, con la democrazia. Ma è rarissimo che questo possa avvenire. perché per arrivare in questi paesi anche alla democrazia reale, per le donne in primo luogo, ma per la libertà di culto, la libertà di potersi muovere, la libertà di potersi mettere, vestire come si vuole, come era in Russia all'epoca di Lenin, la libertà del divorzio, libertà, vabbè, quello c'è, mi pare, la libertà di aborto, la libertà di decidere a partire dai lavoratori cosa produrre, come produrre e a vantaggio di chi, cioè delle grandi masse. Senza questo non c'è nemmeno la via intermedia, è la cosa più utopistica. Credo che quindi questo riassuma e concludo, come diciamo nel nostro volantino di oggi, che ha scritto il compagno Marco Ferrano, lo dico tanto per non sembrare che abbia scritto in 3 minuti, io facendo una riunione internazionale, sentendo le notizie pure scrivendo, non ho ancora queste che triplici capacità. E noi siamo per la difesa dell'Iran senza rinunciare per niente alla lotta con gli Ayatollah. Quindi se oggi le masse si mobilitano contro gli Ayatollah, diciamo no, dovete fermarvi, perché se no, no, bisogna fare una battaglia difficile ma combinata per una soluzione socialista, che è l'unica che può garantire anche le libertà democratiche, per l'autodeterminazione del popolo dell'Iran, perché l'Iran non è la Persia, quasi metà della popolazione iraniana non è persiana o è mista, insomma, quindi con l'autodeterminazione e poi una federazione socialista del Medio Oriente, che sia anche quella in cui possa nascere la Palestina dal fiume fino al mare, che noi tutti auspichiamo, con i diritti per gli ebrei, a parte le canaglie sioniste estreme che vanno cacciate, ma in cui anche gli ebrei possono vivere però come minoranza nazionale in una Palestina araba, nell'ambito di un'unità araba e nell'ambito di un'unità di socialista di tutto il Medio Oriente. Vi ringrazio. Diamo adesso la parola a un rappresentante del comitato sempre con l'Iran. Together for River. All'inglese, eh? Siamo internazionalisti. Saluto tutte e tutti. Come hanno detto i compagni, la situazione che vediamo oggi non è nata infatti oggi, cioè, nel 1953, quando fu il colpo di Stato americano contro il premier Mossadegh, era perché lui era alleato con il partito Tudeh, che era un partito socialista, e gli americani temevano che l'Iran fosse un po' troppo vicino forse all'Unione Sovietica, per cui hanno cercato di fare un intervento per fermare questa vicinanza. E poi da lì è partito tutto, secondo me, da lì è partito questa rabbia magari contro gli Stati Uniti, che poi ha portato alla rivoluzione islamica, che gridava morte all'America, morte agli Stati Uniti. E da lì è iniziato questo... diciamo questo odio questa nemicizia si può dire? Questa nemicizia tra il regime iraniano e gli Stati Uniti. E in tutti questi anni da 1953, ma anche prima, dopo la rivoluzione costituzionale dell'inizio Novecento, ci sono sempre stati tentativi di liberazione da parte del popolo iraniano, cioè dopo che la società iraniana ha iniziato a diventare più moderna, ha fatto la rivoluzione costituzionale. Poi dopo è successo, cioè sono iniziati i primi parlamenti, che poi ha portato all'elezione di Mossadegh, che dopo è stato portato via dal colpo di Stato degli Stati Uniti. Però ci sono sempre stati questi tentativi di liberazione. Però quello che è successo è che c'era sempre un elemento che ha soppresso questa volontà per liberarsi. Nella rivoluzione del 79 c'è stata ci sono stati coinvolti movimenti, partiti, come diceva il compagno, partito Dude, partito Fadoi, anche movimenti nazionalisti come L'Esatto Osadi e altri, ma alla fine sono stati gli islamici a quasi rubare, tra virgolette, strumentalizzare questa volontà per liberazione e stabilire uno stato teocratico, religioso, dittatoriale. E poi quello che stiamo vedendo oggi, stiamo vivendo oggi, è quasi, cioè, è molto simile a quello che stava succedendo nel 79. Cioè, il popolo iraniano, che anche, cioè, sia prima del 79 che dopo, ha cercato di trovare questa autodeterminazione attraverso movimenti come anche il Movimento Verde del 2009, movimenti più recenti da 2019-2022 e anche oggi. Ha cercato di venire in strada a gridare quello che richiede, i suoi diritti fondamentali. Ma non riesce a concretizzare in un movimento, anche perché il regime attuale iraniano è una dittatura assurda e non lascia alla gente di poter organizzarsi per appunto avere uno strumento concreto per poter arrivare a quei diritti. E quello che adesso sta succedendo è questo, è il figlio dello Shah che sta cercando di salire sulle ondate di proteste, di farsi leader di questo movimento. Purtroppo ha anche il supporto da parte dell'Israele, dell'America, più dall'Israele che dagli Stati Uniti. E anche i media fa propaganda che fa la gente credere che la soluzione è tornare a una monarchia già buttata via 50 anni fa. E questa propaganda che ha fatto credere a molte persone che una liberazione possa essere realizzata attraverso una persona così, che veramente, cioè, mostra segni di un'altra dittatura. Già sanno tutti, cioè, come ha trattato le minoranze etniche recentemente, neanche una settimana fa. Ha fatto una dichiarazione che dopo che io sono al potere userò l'esercito per silenziare, opprimere i curdi, perché avevano fatto un'alleanza 2 settimane fa per poter combattere, che sono curdi di sinistra, tra l'altro. E, cioè, la stessa posizione che ha preso anche il regime, tra l'altro. Li ha chiamati separatisti, li ha chiamati nemici del popolo, tutti e due, sia il regime che il figlio dello Shah, hanno chiamato questi gruppi terroristici, che infatti da una parte fa vedere anche una cosa magari un po' interessante, nel senso che secondo alcune analisi può essere che questo regime sta cercando di cambiare pelle attraverso il figlio dello Shah, senza toccare nessuna struttura interna, senza toccare le classi, senza toccare i capitali, solo cambiare una faccia e portare questo figlio dello Shah per far vedere che è cambiata qualcosa. Invece no, quello che sta succedendo in questo livello lo vedo più come un cambiamento della faccia del regime. Ma dall'altra parte, anche se, cioè, nonostante la repressione che avviene contro le organizzazioni più popolari, da parte studenti, da parte dei lavoratori, stiamo anche vedendo queste organizzazioni, cioè la nascita di queste organizzazioni in questo momento, che purtroppo con le notizie di oggi, con l'attacco militare degli Stati Uniti e Israele, magari, cioè, sono, cioè, non so come andranno a finire questa sorta di organizzazione, cioè questa sorta di connessione, questa reteizzazione, come si dice, riorganizzazione delle reti tra studenti, tra lavoratori che stavano davvero creando. Ma adesso con la guerra, appunto, purtroppo, cioè, non sappiamo che fine faranno, dobbiamo solo aspettare a vedere come andrà a alzare la voce contro la guerra, e questo magari è un quadro generale, secondo il mio pensiero. Buonasera a tutte e a tutti. Spiego come, cioè, oggi è un giorno molto triste e anche molto particolare. Cioè, siamo svegliati con la notizia di guerra. Sono notizie che ci lasciano perplesso completamente, perché cioè, quando comincia la guerra è il tempo in cui la gente, diciamo il popolo, gli attivisti non possono fare più nulla. Ci sono le regole, lo scrivono le bombe, cioè sono loro che decidono cosa succederà dopo, quanto durerà questa situazione, e tutti non possono, cioè tutti gli attivisti, l'unica cosa che possono fare è salvarsi e salvarsi la vita. Quindi dove finisce, diciamo, la politica, la società anche, secondo me, cioè. Quindi è un giorno molto difficile, chiedo scusa se non sono molto pronto, anche Said e anche Vale e altre compagne, abbiamo avuto anche difficoltà a convincerli di venire oggi e parlare, perché erano molto sia arrabbiati sia anche delusi per ciò che è stato successo. Io non vorrei dilungare molto, solo parlo di una piccola cosa, perché siamo molto anche curiosi di sentire voi e anche le vostre domande, perché siamo in una situazione molto molto vaga, immagino per voi ma anche per noi, cioè, c'è da dire che questo movimento, specialmente a contrasto, paragonandolo con Donna Vita Libertà, ha avuto molti punti vaghi anche per noi, non è un movimento molto chiaro, è successo con una rapidità senza precedenza, con una violenza anche senza precedenza sia da parte del governo sia da parte alcuni dei partecipanti nelle manifestazioni, che non si sa sinceramente se è stato fatto da parte questa violenza da parte diciamo manifestanti, se era organizzato da parte dei Mossad o da parte del regime stesso o una parte del popolo che erano talmente arrabbiati che hanno cominciato con una violenza che non è accettabile neanche per noi. Cioè, ciò che volevo dire infatti comincio con la domanda che arriva da molti italiani a noi, che chiedono quando scendono in strade in piazza in Italia, diciamo, non sono a Milano, si stupiscono perché vedono bandiere di Israele, vedono bandiere della monarchia e ci chiedono come mai dopo un movimento così progressista come Donna Vita e Libertà siete arrivati a questo punto in arco di un anno, cosa è successo al popolo iraniano, perché adesso tutti siete così. C'è da dire che anche noi siamo stati stupiti sin dall'inizio, cioè anche per noi non era, è una delle parti di diciamo punti di domanda anche per noi, ma ci abbiamo pensato, abbiamo capito un po' cosa è successo e come mai è stato successo così. Io lo spiego per me così, che noi durante Donna Vita e Libertà questo slogan è venuto da Kurdistan, come sapete la maggior parte di voi, è stato prima questo, lo slogan Donna Vita e Libertà è venuto da Rojava. Anche dopo Kurdistan iraniana ovviamente, sono stati loro che all'inizio dopo l'uccisione di Mahsa Amini hanno diffuso questo, con la loro resistenza per 3 giorni hanno diffuso, riuscito a diffondere questa slogan come slogan nazionale, che subito dopo è diventato nazionale. E perché da un lato perché questa repressione delle donne è una cosa diffusa in tutto il paese da 40 anni, tutti erano arrabbiati con questo, quindi la situazione ci ha portato in una direzione in cui le forze progressiste sono riusciti a diciamo introdurre una direzione per il popolo per combattere il regime, una direzione che anche era talmente diciamo progressista che è anche secondo me molto progressista per l'Occidente, non solo per diciamo Medio Oriente o un paese sotto diciamo governo dei un governo autocratico islamista. Noi per 3 anni abbiamo combattuto questo regime avendo la speranza che sta crescendo il lato del popolo che è contro misoginia, contro diciamo patriarcato, che era giusto, questa parte del popolo sta crescendo. Ciò che noi non abbiamo visto e non considerato durante questo movimento, che c'erano anche una parte del popolo che anche se erano contro il regime, ma erano fortemente maschilisti, erano fortemente per il patriarcato e si vedevano in pericolo con questo movimento. Tutti questi ci sono durante il movimento di Una Vita e Libertà, si sono uniti sotto il figlio dello Shah. Cioè lui è riuscito a diciamo diventare il leader di estrema destra iraniana. Anche lì li abbiamo sottovalutato, cioè noi vedendo sempre questo movimento sulle strade con questo slogan pensavamo che loro noi non riusciranno mai a prendere il potere o diventare un pericolo diciamo per il paese. Dopo la repressione di Donna Vita e Libertà, anche se quel movimento è stato represso, ma in realtà è riuscito a cambiare la faccia del paese, è riuscito a cambiare diciamo, la cultura anche dentro l'Iran, è riuscito a liberare veramente le donne, una cosa che anche per noi lo vedevamo durissimo sotto questo regime. Quindi anche se noi abbiamo vinto quella lotta in quel senso, non abbiamo fatto un rovesciamento del regime politico, ma siamo riusciti a cambiare la cultura. Non potendo cambiare il regime, dopo a causa di questa inflazione e anche dall'assoluta povertà, da un lato a causa delle sanzioni, dall'altro lato a causa della corruzione del regime, abbiamo visto che è venuto di nuovo un movimento molto spontaneo da parte del bazar, da parte più tradizionale del paese, che subito dopo 2 o 3 giorni è stato diffuso in tutto il paese. Fortunatamente era una cosa legittima, ma questa volta con l'aiuto di Israele, con tutti i loro media che hanno dentro Iran, perché noi abbiamo in Iran non ci sono TV private, sono TV gestite o da governo o da Israele e Stati Uniti in persiano sui satelliti. Loro sono molto propaganda, sono riusciti in arco di 10 giorni a dare il mano forte a tutti quelli pro patriarcato, la parte estrema destra iraniana, che era anche represso e era molto molto arrabbiato, e con crescita di ondata di estrema destra in tutto il mondo, non solo in Iran, loro sono anche riusciti a prendere una sensazione che loro sono adesso il più potente. Quindi ciò che vedete nelle strade di qua in Italia, secondo me, anche secondo noi, da un lato è una parte del popolo iraniano che noi non volevamo vedere. E lo sbaglio che fanno molti, secondo me, italiani, anche noi su altri popoli, è che pensiamo che, per esempio, abbiamo alcune cliché, per esempio, il popolo curdo è tutto sinistra, è tutto per resistenza, sono tutti bravi. In realtà non è così, anche dentro il popolo curdo ci sono molte persone reazionarie o molti gruppi che sostengono Israele o vogliono un sostegno di Israele. Anche dentro il nostro popolo è così, cioè noi siamo anche molto molto divisi. Il popolo iraniano è composto, come esattamente come qua in Italia, da destra, da sinistra, da centristi, cioè, di tutti. Quindi anche lì c'è questa divisione da noi. Io spero che questa confusione, vedo anche dai compagni, per esempio, in Iran adesso una gran parte del popolo, dall'assoluta disperazione, specialmente dalla violenza che ha fatto questo governo, pensano che il nemico del nemico, cioè l'Israele, è il loro alleato, è un loro amico e vuole liberarli. E in realtà lo stesso sbaglio che fanno un parte del popolo palestinese, che pensano un regime sanguinario, cioè il regime islamico, che sta facendo repressione assoluta al loro popolo, è per liberare loro dal regime israeliano. Cioè è la stessa linea di problema, che fa anche una parte di sinistra italiana. Anche una parte di sinistra italiana pensa che c'è Israele, che sappiamo che è uno dei più cattivi poteri del mondo, pensando, dato che solo il regime islamico dice che è contro Israele, allora è nostro amico. Non è così, dobbiamo cominciare a pensare un po' più profondo. Le società sono divise, e poi i repressori anche possono essere tutti repressori, ma tutti divisi, tutti uno contro l'altro, fare una competizione. Quindi solo volevo spiegare queste dinamiche, e poi sono molto curioso a sentire le vostre domande, anche i vostri interventi, molto volentieri. Vi ringrazio molto. Buonasera. Io spiego il mio punto di vista in persiano, il mio amico, i miei amici spiegano in italiano. یک مسئله که فکر میکنم که ذهن خیلی ها رو تو این موقعیت مشغول خودش میکنه این هستش که در واقع ما با زن زندگی آزادی الان کجا ایستاده ایم و خب حالا این شعار چه کاربردی داره؟ میخوای تا همینجا بگیم؟ Una questione che pensiamo oggi è che donna vita libertà che dove siamo con donna vita libertà e perché ancora ci crediamo. یک مسئله که همچنین حالا بهروز جان اشاره کرد بهش این که چرا انقدر قدرت‌های حالا پدرسالار در ایران این مدت زیاد شدن و خب مسئله این نبوده که ما ندیدیم میدیدیم ولی به اون صورت شاید خودمون رو نتونستیم ارگانایز بکنیم. یکی از اتفاقات خیلی بارزی که توی جنبش زن زندگی آزادی افتاد این بود که جامعه به این نقطه رسید که زنها قدرت دارن، عاملیت دارن و توانایی این که ساختار رو بخوان تغییر بدن و کلن کنفیکون بکنن دارن و این مسئله برای خیلی ها ترسناک بود و کماکان هست. به خاطر اینکه من فکر میکنم اگر برگردیم به نقطه اول، تغییر کلن ترسناک هستش. اینکه تو از اون موضع قدرتی که داری، امتیازی که داری، قرار برداشته بشی. Lei dice che a continuazione di ciò che io stavo provando a dire che per capire perché siamo qua e perché non abbiamo capito o non abbiamo visto abbastanza bene questa crescita di ondata, diciamo, di pro-patriarcato, lo chiamiamo così, e perché diciamo un attimino. E perché da un lato è perché molti di una parte del popolo che era pro patriarcato hanno capito che anche hanno sentito che anche le donne possono avere diciamo agenzia e hanno cominciato ad avere paura di questa l'agenzia delle donne. E anche in realtà non è solo per loro, cioè il cambio è sempre difficile anche per noi, cioè cambiare abitudini è difficile e per loro era un cambio di abitudine tutto questo. توی نقطه بعدی به نظرم اون چیزی که اهمیت داره این هستش که با توجه به این که راست افراطی همیشه جنبش های آزادی خواهانه رو هایجک میکنه، ما باید حالا کسانی که به هر صورت با این هایجک ها مخالف هستن، با سیستم های استعماری مخالف هستن، باید بتونیم در یک نقطه جمع بشیم زیر اون نقاطی که در واقع با هم یه مشترک هستیم و با هم یه توافق داریم. و شعار زن زندگی آزادی شعاری هست که ما رو میتونه اونجا جمع بکنه. اوکی، nel secondo punto quando esiste un'estrema destra che cerca di strumentalizzare e rubare le i nostri movimenti noi come quelli che siamo contrari a questa mentalità dobbiamo unirci intorno a un punto di riferimento. e Donna Vita Libertà ha queste caratteristiche e ci può unire intorno a questo slogan. مورد بعدی این هستش که ما وقتی در مورد شعارها صحبت میکنیم باید مصداقهای اون شعارها رو بدونیم، مصداقهای واقعی اون شعارها رو بدونیم. Quando noi usiamo uno slogan dobbiamo sapere dove vengono applicati, in quali contesti. Sì, anche esempi di questi slogan. Ok. No, parlo italiano, ma troppo stressata. و نکته‌ای که در مورد جنبش زن زندگی آزادی در حال حاضر هست، ما اگر به اون نقطه زندگی برگردیم و نگاه بکنیم، خود اون کلمه زندگی مخالف جنگ هستش، مخالف استعمار هستش. Se guardiamo bene questo slogan, c'è anche vita dentro, donna vita, libertà, e vita si riferisce anche, cioè vita stessa e anche contro la guerra. E contro la guerra è imperialismo. و بعد نکته دیگه ای که وجود داره این هستش که حالا یک مثال معروفی هستش که میتونیم بگیم، وقتی که یک مثلا نمیدونم بگم مثالشو، مثلا وقتی که یه نونوایی باز هست و این یه صف طولانی داره و اون نونوا میگه که آخرین نفر تا اون صف قراره بهش نون برسه، تمام کسایی که جلوتر از اون آدم هستن هم بهشون نون میرسه. و این یک نکته خیلی ساده ای هستش که آدم ها حالا یا درکش نمی کنن یا نمی خوان در نظرش بگیرن. و خب ما زمانی که میایم خواستارهای زنان رو در نظر نمی گیریم یا در واقع فکر میکنیم که الان وقتش نیست، الان اونها مهم نیستن، یا حتی مثلا در مسئله جنگ اتفاقاتی که میفته، مسئله اقتصادی که اتفاق میفته در مورد مثلا سلامت زنان، نقشای مراقبتی که وجود داره و الی آخر، تمام اینها فشار بیشتری به اقشار ضعیفتر خصوصا زنها وارد میکنه، خصوصا در جامعه ایرانی که خب فشارهای خیلی زیادی از همه جهت وجود داره، فشارهای خیلی بیشتری خب به زنها میاد. و ما وقتی که میایم شروع میکنیم از حقوق زنها دفاع میکنیم یا کماکان با شعار زن زندگی آزادی پیش میریم، در واقع حقوق بقیه اقشار جامعه رو هم داریم در نظر میگیریم. حالا اون اقشار جامعه میخوان از هر قومیتی باشن، میخوان هر سطح اجتماعی باشن، از هر گروهی میخوام باشن یا از هر جنسیتی و حالا گروه جنسی که هستن میخوام باشن. Torno al discorso che le diceva all'inizio, lei stava dicendo perché noi ancora ci vediamo, perché vediamo ancora Donna Vita Libertà come luce sulla nostra, diciamo, strada, sul nostro percorso. E ha fatto un esempio, ha detto che per esempio quando noi siamo in un quando un panettiere vede che ci sono limitati i numeri dei panni rimasti e poi c'è una coda, quando il panettiere dice che è l'ultimo in coda anche riceverà due pani, vuol dire che tutti che sono in coda davanti a quella persona saranno sicuri che riceveranno il pane, perché c'è, se l'ultima persona per lui rimarrà due, vuol dire che tutti avranno. Quindi lei dice che ha fatto questo esempio per dire che quando noi sia nella guerra sia in qualsiasi altra situazione parliamo dei diritti delle donne, e perché sono il gruppo che specialmente durante la guerra va schiacciato più, sia dal patriarcato, da chi è maschilista, da chi ha violenza, sia dalle bombe, sia, cioè, rendono la vita molto difficile specialmente per le donne. Quindi per cui quando noi parliamo dei diritti delle donne, in realtà stiamo considerando diritti di tutti, non solo quelli delle donne. Grazie. Allora, compagni, abbiamo il dibattito. Chi vuole intervenire interviene, chi vuole fare domande fa domande. 5 minuti di intervento, la domanda va via da sola. Ivo. Voglio mettere in luce solo una questione, cioè la cosiddetta rivoluzione comunista è una controrivoluzione in marcia, voluta anche dagli imperialisti allora e appoggiata dalla Francia e da altre potenze. La attuale guerra non vede solo l'imperialismo americano e Israele o l'Arabia Saudita o altri stati in movimento bellico contro uno stato oppresso, ma vede uno stato oppressore che combatte contro altri stati anche più potenti. L'Iran, almeno negli ultimi 45 anni, ha fatto una politica di espansione eccezionale, grazie anche alle follie dell'imperialismo americano che l'hanno favorito, in Iraq, in Siria, in Palestina e in Libano soprattutto. Di conseguenza l'Iran è una potenza regionale, una grande potenza regionale, che non è innocente in questa guerra, vuole questa guerra, esattamente come la vogliono gli assassini sionisti e come la vogliono i briganti americani e come la vogliono anche altre potenze. E chi è l'oggetto di questa guerra? È l'oggetto che prima, 50 anni fa, non aveva la potenza che ha oggi, e cioè il proletariato medio orientale. L'Iran per me è un grande paese, non solo perché abbiamo avuto la più grande rivoluzione nelle strade del XX secolo, ciò che è successo allora è eccezionale, ma perché negli ultimi anni, da 10 o 15 anni, abbiamo avuto sia Donna Vita e Libertà, sia il movimento operaio e popolare delle rivolte dal 2015 in avanti. Uno slogan era pace, pane, libertà nel 18-19. Pace, pane, libertà ci ricorda uno slogan dei bolscevichi. Perché pace, pane, libertà? Pace perché l'Iran faceva la guerra in Medio Oriente, la faceva già allora, per i suoi porci interessi. Pane, perché per fare quella guerra c'era la miseria che avanzava. Il 18-19 sono state delle rivolte in tutto l'Iran e le hanno fatto i giovani e gli operai. E libertà, è evidente, non ne parlo neanche. Quindi, dato che non posso tenere il microfono oltre, dico: guardiamo la situazione di oggi, e questa è la mia polemica sempre col caro Franco. La situazione di oggi è profondamente diversa da quella che si sono trovati ad affrontare i compagni russi, italiani, gli internazionalisti dall'inizio del Novecento. È completamente diversa anche dalla situazione degli anni 50, di Mossadegh, eccetera. Vede in tutto il Medio Oriente ciò che prima esisteva in maniera molto più limitata. Vede un'enorme classe operaia, un enorme proletariato, che è la base su cui si sviluppa qualsiasi lotta sociale. Quindi oggi dobbiamo dire: siamo contro gli americani, siamo contro Israele, ovviamente siamo contro la Meloni, però abbiamo il vantaggio che Crosetto è fermo a Dubai, quindi non interverremo subito. Però detto questo, siamo a fianco dei proletari e delle donne, dei giovani iraniani che 2 giorni fa erano nell'università a combattere. Siamo con loro perché vogliamo l'unione del Medio Oriente proletario. Ci sarebbe da discutere come costruirla, con quali forze e così via. Però è questo il nostro dibattito anche in Italia. 30 secondi. Concordo molto con il compagno che ha parlato. Volevo solo dire, cioè, questo parte del, quando ho fatto l'intervento prima, volevo dire anche questo, che giustamente i popoli sono anche divisi dappertutto, cioè la parte destra, sinistra, dappertutto. Quindi io ho detto che quando scendete in strada, in piazze in Italia, vedete molto bandiere di Israele. Questa è la parte di estrema destra iraniana con la bandiera di monarchia. Ma il popolo iraniano non è solo quello, ci sono tantissimi sia dentro Iran che stanno lottando, non c'entrano nulla con questa ondata di estrema destra, come diceva il compagno, delle università specialmente, hanno dato molte slogan contro lo Shah e anche contro il regime, contro la guerra, ci sono i sindacati, sono molto molto attivi, anche qua in Italia sono tantissimi gruppi diciamo di sinistra italiana, giusto che questi gruppi diciamo monarchici adesso hanno il mano, diciamo, il sopravvento adesso, ma non voglio, cioè, chiedo voi compagni di non lasciarci da solo, cioè, quando anche i iraniani fanno manifestazioni, vedete le locandine, se vedete che cioè, tutto torna, è tutto giusto, date un sostegno, non dovete lasciarvi deludere dal per esempio popolo iraniano perché vedete sul TV cioè, questa manifestazione dei monarchici con bandiere con l'Israele. Non sono tutto l'Italia, tutti gli iraniani non sono così, siamo molto divisi e vi chiediamo di sostenerci. Grazie. Questo è sicuro e scontato, eh? Sia chiaro che le lotte del popolo italiano qui saranno sempre appoggiate da tutti. Qui lo sanno, è rivolto a noi, ci conosciamo troppo bene. Sì, sono un compagno della Lega Trotskista d'Italia. Volevo partire da, un po' ricollegandomi all'intervento di prima, la situazione che abbiamo davanti è molto chiara. La superpotenza imperialista americana, i loro cani da guardia sionisti, i loro alleati imperialisti subordinati in Europa, sia quelli di destra sia quelli più ipocritamente liberali, stanno tutti attaccando l'Iran per devastare il paese e rendere impossibile un contrappeso in Medio Oriente, perché l'Iran è stata una spina del fianco per vari motivi per molti anni. Quindi vorrei iniettare un senso un po' di urgenza in questa discussione, perché nei prossimi giorni è indispensabile che ci sia una risposta della classe operaia internazionale, dei popoli del sud globale, che impediscano la devastazione dell'Iran, che si schierino dalla parte dell'Iran contro gli Stati Uniti e i loro alleati, perché se riescono a devastare l'Iran, come hanno fatto in Iraq, in Libia, in Afghanistan, in molti altri paesi, il loro dominio in Medio Oriente diventerà incontrollato e la situazione per tutti nel mondo sarà pesante. Hanno già preso il Venezuela, vogliono strangolare la rivoluzione cubana e non vado avanti, ci sono molti altri esempi. Non si può essere neutrali in questa situazione. Io capisco i compagni iraniani non vogliono apparire in un blocco con gli Ayatollah, un regime odiato e reazionario, è comprensibile, ma essere neutrali o peggio, essere filoamericani in questa guerra può avere solo una conseguenze devastanti, non parlo di voi, in generale, devastanti per la popolazione iraniana e per la lotta per rovesciare il regime, perché non si può lasciare nelle mani degli Ayatollah la patente di antiimperialisti. La sinistra iraniana deve prendere chiaramente una decisa posizione di difesa del suo paese contro gli americani e farlo in un modo che non cessi l'ostilità con gli Ayatollah, ma che si acutizzi, perché mobilitare i popoli curdi, baluchi, le minoranze in difesa del loro paese contro gli americani significa anche lottare per i loro diritti a separarsi dall'Iran, che sono sacrosanti. Questo vale per tutti gli strati della popolazione, gli operai, le donne. Mobilitarsi per difendersi da questo massacro è una base per lottare contro l'attuale regime. Altrimenti ci si isola dalle masse e si rischia di essere visti come amici degli imperialisti, non che lo siano tutti, ma se non ci si oppone ferocemente a questa cosa si va in quella direzione. In Italia abbiamo un compito duplice, uno è quello di contrastare il nostro governo, che è ovviamente complice del genocidio in Palestina e di questa situazione, ma anche di combattere la sinistra liberale che si maschera dietro a frasi pacifiste, ma sostiene l'Unione Europea, la NATO e l'imperialismo italiano. Il pacifismo adesso non serve a niente, non fermerà l'imperialismo americano e serve solo a cercare un compromesso con le borghesie europee che sono un pochino preoccupate dell'unilateralismo di Trump, si cagano un po' addosso, diciamo così, per usare un termine eufemistico, e non sono in grado di fare niente contro Trump perché sono legati all'imperialismo americano e al sistema euroatlantico. Combattere queste forze è l'unico modo anche per fermare l'emorragia degli operai che guardano alla destra perché si sono rotti di 30 anni di chiacchiere liberali e devastazione. Questi due compiti devono essere uniti e c'è un dilemma enorme di fronte alla sinistra iraniana, alla sinistra nel mondo che paralizza tutti. Come facciamo a rovesciare un regime odiato senza aprire la strada alla devastazione del paese? Come facciamo a opporci all'imperialismo americano senza apparire in un blocco con i mullah reazionari? La soluzione è rivolgere tutti i propri sforzi contro l'imperialismo, che è quello che ha sempre deciso la storia dell'Iran, che è la ragione ideologica per cui gli ayatollah sono ancora al potere, perché si presentano come i nemici del grande Satan americano e dicono: se cadiamo noi farete la fine dell'Iraq. E questo pericolo è vero, le masse lo sanno, hanno ragione a temerlo, ma se noi non per timore di dare ragione agli ayatollah gli lasciamo in mano questa carta, non avremo nessun modo di rovesciarli. Serve una lotta antiimperialista per la rivoluzione in Iran e anche qui da noi. Vincenzo. Sì, buonasera a tutte e tutti, vado a braccio anche perché gli interventi sia dei compagni Franco e Natale con i quali siamo cresciuti insieme in questi nell'ultimo decennio, sia con le compagne e i compagni di Together for Iran e del collettivo Rivoluzionario Gina, comunque è un rapporto che va avanti da diversi anni, da almeno un 4 anni, ecco, dalla donna Vita e Libertà, che per fortuna ha visto anche in questa città una stagione di lotte nella quale ogni sabato pomeriggio c'erano le piazze di Milano, gridavano in solidarietà col popolo dell'Iran, con le lavoratrici, con i lavoratori dell'Iran. Una serie di fili rossi mi ha acceso questo dibattito, questi primi interventi. Io non posso non pensare anche a quanto sia dirimente, quanto sia importante anche sostenere questa fazione, per così dire, della diaspora iraniana, al grido né Shah né Mullah, per un semplice motivo. Siamo nel 2026, 50 anni fa, in Argentina, scusatemi se vado oltreoceano, il 24 marzo, c'era il golpe di Videla. Il golpe di Videla ha portato a una dittatura pesantissima che ha visto il massacro dei nostri compagni del Partito Socialista dei Lavoratori, stesso nome dei compagni marxisti rivoluzionari in Iran, non è un caso. Ma anche non posso non pensare anche a quanto fino al 79 il regime di Reza Pahlavi fosse un regime che su tante questioni economiche e anche poliziesche non fosse tanto diverso anche dal regime di Videla in Argentina. Non posso non pensare anche alla SAVAK, a quanto fosse odioso il ruolo della SAVAK e a quanti migliaia di compagni e compagni, soprattutto durante gli anni 70, sparivano ogni anno nelle prigioni clandestine della SAVAK. Insomma, un filo rosso anche di sangue. Ma un filo rosso anche di sangue, compagni e compagni, che ci deve far riflettere. Ci deve far riflettere anche sul carattere reazionario, del regime iraniano. Penso ai droni. I droni prodotti dal regime iraniano sono quelli che sporcano di sangue l'Ucraina, sono quelli che vengono forniti al regime amico di Putin per massacrare il proletariato ucraino. L'intervento del compagno e soprattutto amico Beirut mi ha acceso soprattutto una lampadina di una connessione, un filo rosso, anche su quanto appunto lui giustamente dice che non bisogna appunto immaginare i popoli come un unico blocco, che sia a destra, che sia a sinistra. Lo vediamo giustamente con i curdi, anche con la loro differenziazione interna. Non posso non pensare anche al fatto che nello stesso Kurdistan turco c'è ad esempio la minoranza degli Zaza, che hanno un atteggiamento più friendly, un atteggiamento molto più amichevole verso Erdogan rispetto alle compagne e ai compagni curdi, diciamo, soprattutto sul confine siriano, sul confine iraniano. Come non posso anche non pensare anche a quanto questo assioma inconfutabile del compagno Beirut debba essere applicato anche, ad esempio, all'Ucraina. Ci troviamo in Italia dinanzi ad un grosso, grave, pesante, schifoso inquinamento dei pozzi, fatto soprattutto, bisogna fare nomi e cognomi, fatto da Contropiano, da questa testata che nella peggior tradizione stalinista ha anche buttato, mo ci vuole, fango verso settori di compagni e di compagni. Non posso non pensare anche all'ultimo, alle sparate fatte contro la compagna e amica Ilaria ultimamente nei riguardi della sua denuncia corretta del campismo. Quanto inquinamento di pozzi sia stato fatto anche verso la questione dell'Iran, presentato come un baluardo antiimperialista, come è stato fatto sin dal 2014 verso l'Ucraina, presentandocela come un enorme raduno di Norimberga, quando poi in Ucraina ci sono realtà di compagni e compagni che combattono su un doppio fronte contro un'aggressione imperialista a tutti gli effetti, qual è quella russa. Non posso non pensare anche alla Wagner e a quello che fa con il nome di Africa Corps, un nome che è tutto un programma, soprattutto nei paesi del Sahel. E non posso anche non pensare al fatto che ci sono realtà in Ucraina, soprattutto marxiste, rivoluzionarie e anarchiche, anche impresse da una forte impronta transfemminista, che combattono anche in primis contro il governo Zelensky e la sua cricca, che è un governo dalle politiche neoliberiste e reazionarie, ci teniamo a specificarlo. E in prima linea ci sono le nostre compagne, i nostri compagni della Lega Socialista Ucraina e del sindacato indipendente Zahis Prazi, che è un sindacato attivo tra i ferrotranvieri, tra, diciamo, nel settore pubblico e tra i minatori. Gli operai del petrolio, giusto, sì. Penso all'Ucraina anche per la questione che si diceva prima delle terre rare, no? L'Ucraina ospita, oltre al grano, anche uno delle principali riserve mondiali di terre rare. Tu sei d'accordo fino ad adesso, Gami, con quello che ha detto papà? Ok, mi dai la mano? È un po' incerto. Quindi, a maggior ragione, è fondamentale anche, diciamo, che un fronte unico qui anche in Italia, a sostegno appunto di queste realtà della diaspora iraniana, come il collettivo rivoluzionario Gina, come Together for Iran. Poi io parlo soprattutto in conoscenza della piazza milanese per un rapporto di oramai di più anni, però non posso anche non pensare al fatto che, come appunto da marxisti rivoluzionari sosteniamo le aree laiche, socialiste della diaspora palestinese, e soprattutto in una città come Milano, dove c'è una forte egemonia islamica nella piazza Propal, che non a caso vede anche il sostegno appunto dei seguaci di Contropiano, ovvero della rete dei comunisti, che a mio avviso rappresentano ad oggi il peggiore stalinismo. E torno a fare una connessione: nel 76 in Argentina Videla godette del sostegno stalinista dell'Unione Sovietica, ricordiamocelo sempre. Scusatemi se posso essere sembrato confusionario, ma questi, diciamo, questi vari interventi mi hanno un po' acceso varie lucine, ecco, come quella del presepe che facciamo a Napoli. E quindi per questo, diciamo, a maggior ragione è necessario un sostegno alle anime laiche della resistenza iraniana nella diaspora e anche in Iran, proprio perché non ci siano più migliaia e migliaia e migliaia di compagni e compagni come i nostri compagni all'epoca del Partito Socialista dei Lavoratori, le migliaia, perché dobbiamo sempre ricordarcelo, di compagni e compagni soprattutto di base del Tudeh, che vennero massacrati nelle carceri degli Ayatollah, come un po' successe anche nelle carceri indonesiane e nei campi di concentramento indonesiani più di 60 anni fa, proprio sempre per le direttive di Mosca e dello stalinismo. E quindi per questo donna, vita e libertà deve essere uno slogan che la cui bandiera deve essere alzata ancora oggi, insieme a quella mai come adesso, di un Medio Oriente socialista e laico, dalla Palestina all'Iran passando per il Kurdistan. Grazie. Bravo. Giuseppe. Eccomi. Allora, io devo fare alcune domande, però prima di porre le domande voglio brevemente dire qualcosa. Allora, l'intervento dell'imperialismo americano, dell'imperialismo sionista, è stato vigliacco da una parte, perché mentre intavolava le trattative sul nucleare, faceva finta, no, di intavolare, colpiva l'Iran, e questo è proprio vigliacco, tipico degli imperialisti. Ma anche illusorio dall'altra parte, nel senso che quando gli ayatollah reprimevano la rivolta popolare, gli americani, l'imperialismo americano prometteva interventi umanitari, diceva, li incoraggiava a proseguire, poi senza fare niente, per fortuna. Però voglio dire, ecco, questi sono gli imperialisti. Certamente era nell'aria l'attacco, perché un giorno sì e l'altro pure continuava a dire che prima l'intervento umanitario, poi col nucleare, quindi era nell'aria che era questione di ore, di giorni, che era nell'aria che l'intervento ci sarebbe stato, puntualmente c'è stato. Ma questo è l'ultimo episodio, perché in precedenza, dal 79, da quando il regime si è affermato, tra l'altro reprimendo le avanguardie rivoluzionarie, reprimendo i comunisti, una delle ragioni per cui si è affermato, l'Occidente, i vari imperialisti hanno sempre tentato di sabotare, di eliminare, di buttare giù il regime iraniano, non riuscendoci. Prima hanno provato con l'Iraq, poi hanno provato con le sanzioni, però non ci sono mai riusciti. Allora, certamente noi dobbiamo essere, qui non ci sono dubbi, contro l'imperialismo americano, contro i vari imperialismi che intervengono nell'area. Questo va da sé. Però non possiamo dimenticarci che non è che possiamo dire, vabbè, siamo contro l'imperialismo e ci schieriamo con i teocrati. No, assolutamente no, perché non possiamo dimenticarci quello che sta succedendo adesso, sta succedendo il massacro, gli arresti, le morti che ci sono in Iran. E quindi noi dobbiamo intervenire su due fronti, contro l'imperialismo, ma anche contro i capitalisti iraniani. Certamente è difficile, però questa è la strada. E a questo, allora, siccome bisogna essere contro l'intervento dell'imperialismo, perché porta solo distruzioni, e quindi se bisogna essere contro l'imperialismo che porta solo distruzioni, bisogna essere per qualcosa d'altro, nel senso che una società più giusta, più libera, più uguale non può essere opera degli imperialisti, ma deve essere opera della popolare, degli operai, dei lavoratori iraniani. E qui non ci sono dubbi, noi dobbiamo sperare solo su quello, solo sull'appoggio del proletariato internazionale. E allora vengo alle domande che ponevo prima. Siccome deve essere opera del proletariato, dei lavoratori iraniani, mi chiedo, anche perché se ne è parlato poco, su quale strutture hanno in questo momento, non quelle che ci possono essere, su quale strutture consiliari oggi hanno i lavoratori iraniani per portare avanti la rivoluzione, quale e soprattutto che tipo di autodifesa, soprattutto che tipo di autodifesa, perché non è che io quando vedevo le immagini alla TV, dalla repressione dei moti della, iraniani. Avevo un moto di rabbia perché vedevo massacrare questa popolazione. Allora mi chiedo, anche qui, che struttura di autodifesa hanno, si danno i proletari iraniani per poter creare una società più giusta? Penso questo attacco, sentite, sì, questa aggressione americana chiaramente è proditoria ed era probabilmente già stata pianificata dall'inizio, nel senso che le trattative erano solamente il pretesto per dire ci hanno detto di no, e perché poi si erano dati appuntamento a fra qualche una settimana, ok, quindi non era solo il pretesto, quindi è chiaramente un atteggiamento tracotante imperialista che era stato già pianificato, e su questo niente da dire, e quindi giù le mani dall'Iran è lo slogan che occorre portare avanti, che però non penso debba essere difendere l'Iran, nel senso che difendere l'Iran è difendere l'attuale governo. Ora, certamente l'attacco americano-israeliano in prima battuta non favorisce il movimento di lotta contro il regime, perché crea un clima, un'atmosfera naturalmente di difesa nazionale, e per cui chi va contro il governo è l'agente del nemico. Quindi questo pone un problema molto pesante per il movimento, e da questo punto di vista finisce col rafforzare il regime, a meno che non arrivino elementi interni al regime a passare dall'altra parte. In Venezuela l'hanno trovato tranquillamente questo, e adesso gli Stati Uniti dicono pasdaran, se non vi opponete sarete trattati bene, cioè manterrete i vostri privilegi. Non sappiamo come andrà avanti questa guerra, che certamente porterà ulteriori sofferenze al popolo iraniano. Non sappiamo, l'altra a giugno è stata la guerra dei 12 giorni, questa volta temo che sarà più lunga, proprio perché l'obiettivo non è l'ottenere qualcosa sul nucleare, ma l'hanno lasciato dire praticamente regime change, e potrebbe avere anche grosse ripercussioni però nell'area. L'Arabia Saudita era contraria e non ha concesso lo spazio aereo agli americani per condurre le operazioni, perché teme le ripercussioni in tutta l'area. E allora veniamo a quanto diceva anche prima il compagno Ivo, c'è una forte tensione, forti contraddizioni sociali in tutta l'area, anche nel Libano. In Siria è un paese che è già stato disastrato da questi anni di guerra civile, per cui ha perso quasi metà della popolazione, ma tutto il Medio Oriente, che è anche pieno di, cioè, il Golfo, sono più i proletari immigrati che non i locali, e c'è un potenziale esplosivo che è tenuto a bada in maniera schiavistica. Ok. E qui la situazione è molto, molto incerta. Il problema è anche, ecco, quello che veniva posto prima, cioè come gli iraniani riescono a reagire, facendo tesoro delle loro esperienze, delle lotte, quelle del 18-19, quelle di Donna, Vita e Libertà. L'ultima che è stata troppo breve e che ha subito una repressione che è la repressione più micidiale che abbiamo avuto in questo secolo, senz'altro, no, con migliaia di manifestanti uccisi. Ci sono tentativi, ma quelli dei partiti che hanno portato avanti la battaglia nel 79-80 sono quelli che sono sopravvissuti, sono quasi tutti all'estero, ci sono nuove generazioni che devono apprendere dall'esperienza avuta e si parla ancora però di consigli, si parla di formare delle istituzioni proletarie dal basso e ecco, non sappiamo come potrà svilupparsi queste cose, però ricordiamoci anche in Russia la rivoluzione è nata dalla guerra, dopo anni di guerra, perché i primi anni sono quelli del nazionalismo, ma poi quando la guerra diventa appunto le bare, le sofferenze, la fame, eccetera, allora ecco, quindi la prospettiva non è chiara, ma senz'altro queste grandi contraddizioni devono trovare un sostegno da noi qui contro il nostro governo. Già subito la Meloni è preoccupata del popolo iraniano, no? Perché vuole sostenere questa linea del regime change con lo Shah. E io sono convinto, certamente loro hanno dei mezzi di comunicazione che sono finanziati, hanno grandi, quindi l'influenza anche soprattutto all'estero, ma anche in Iran, sia degli israeliani che pare abbiano una presenza abbastanza capillare, sia degli americani, eccetera, ha portato una parte degli oppositori su quella linea. Però io penso che il grosso del popolo e soprattutto del proletariato, che la classe operaia delle fabbriche in quest'ultima fase è stata più assente che non in precedenza, ma si ripresenterà senz'altro, e quindi cerchiamo di far sentire da parte nostra il nostro sostegno, la nostra opposizione a questa guerra e vediamo di partecipare a quello che saranno le lotte sociali del futuro. Grazie Roberto. Ilaria. Grazie. Allora, compagni e compagne, innanzitutto volevo ringraziarvi per aver organizzato questo incontro, perché è stato veramente molto interessante poter ascoltare questi contributi. E anche qui in Italia portare appunto la solidarietà al popolo iraniano in questo momento estremamente difficile è sicuramente una priorità, e non è facile perché, come è emerso anche dai vostri interventi, purtroppo la destra, l'estrema destra, sta provando a egemonizzare quella che è la lotta di liberazione del popolo iraniano, appunto da una parte da quelle che sono le aggressioni imperialiste e dall'altra invece da un regime. E dunque vorrei farvi due domande, sarò breve. La prima domanda è come, in che modo possiamo portare in maniera più reale, in maniera più efficace la nostra solidarietà, in che modo da qui possiamo fare qualcosa che sia di veramente utile per le donne, per i lavoratori, per gli studenti in Iran. E la seconda domanda invece riguarda, per quanto appunto riguarda il fronte contro il regime, riguarda le sanzioni, cioè volevo chiedervi come vedete voi le sanzioni, se è qualcosa che può essere utile, delle sanzioni imposte dalla comunità internazionale nei confronti del regime iraniano, se può essere utile a strangolare il regime, o se invece queste sanzioni rischierebbero invece di andare a peggiorare le condizioni materiali della popolazione. Ecco, grazie. Grazie. Mario. Sì, ma poi rispondete tutti e tre. Alla fine rispondiamo tutti e quattro. Brevemente, spero. Allora, io sono un compagno del Partito Comunista dei Lavoratori e innanzitutto porto la solidarietà, già è stato detto da Franco e da Natale, del nostro partito al processo rivoluzionario iraniano, alla lotta di resistenza del popolo iraniano contro un regime reazionario, teocratico, islamico, che è sicuramente un regime pessimo, un regime di oppressione, diciamo, di stampo appunto teocratico, reazionario e fascistoide. L'aggressione dell'imperialismo americano e sionista all'Iran è indubbiamente un'aggressione nei confronti dello Stato iraniano, della nazione iraniana e del popolo iraniano. È un'aggressione innanzitutto contro la rivoluzione iraniana, il processo rivoluzionario iraniano. È un'aggressione che ha come obiettivo quello di, diciamo, condizionare il processo rivoluzionario iraniano in senso moderato, o meglio, in senso reazionario, favorendo le forze, come diceva il compagno, le forze di destra, gli elementi di destra che forse che sono presenti sicuramente. Quindi la posizione dei marxisti rivoluzionari è una posizione anzitutto contraria agli imperialismi aggressori, a sostegno dell'autodeterminazione del popolo iraniano e a sostegno del popolo iraniano, ma nello stesso tempo contestualmente contraria, nettamente contraria al regime teocratico islamico che opprime il popolo iraniano. Il processo rivoluzionario è un processo dialettico, un processo continuo, diciamo, che si evolve dialetticamente in modo continuo, in cui gli obiettivi democratici e i diritti democratici per cui si battono movimenti come Donna, Vita e Libertà, cioè gli obiettivi costituiti dai diritti democratici fondamentali di libertà e dai principi democratici di uguaglianza, quindi l'uguaglianza di genere, ma l'uguaglianza universale, possono essere realizzati esclusivamente nella fase socialista, nell'ambito di un processo rivoluzionario che è necessariamente socialista. Non ci sono tappe democratiche. I diritti democratici di libertà e i principi di uguaglianza vengono realizzati sostanzialmente solo dal socialismo. Allora, se questo è vero, e questo è vero, e se in Iran c'è un processo rivoluzionario implica una mobilitazione di massa, implica una mobilitazione della classe lavoratrice di massa e implica sostanzialmente la presenza di organi, di organismi, di rappresentativi dei lavoratori, che sono i consigli dei lavoratori, organismi istituzionali rappresentativi dei lavoratori, che dovranno essere la struttura fondamentale del nuovo Stato socialista che realizza i diritti democratici anche e soprattutto. Ora, la domanda che voglio fare io: c'è una, per quello che so io non lo so sinceramente, però lo chiedo a voi, c'è in Iran un processo appunto di tipo rivoluzionario che vede la classe lavoratrice mobilitarsi e costituire istituzioni democratiche rappresentative della classe, cioè organismi consigliari rappresentativi della classe lavoratrice? E poi c'è un partito marxista rivoluzionario, il nostro partito, o non c'è questo partito che possa dirigere il processo rivoluzionario in senso socialista? Perché senza partito, che è la coscienza avanzata della classe lavoratrice e la coscienza socialista della classe lavoratrice e delle masse popolari, senza la direzione del partito, nessun processo rivoluzionario può avere un esito socialista. Senza partito, al di fuori del partito, lo diceva Trotsky, non lo dico io, con un surrogato di partito, nessun processo rivoluzionario può arrivare alla democrazia socialista, che è quello che dovete costruire voi, a cui noi diamo sostegno pieno, in una fase che potrebbe essere definita rivoluzionaria. Cioè voi dovete avere l'obiettivo, con un partito, se c'è un partito, costruire un partito, di dirigere il processo verso la democrazia socialista, che realizza e sintetizza gli obiettivi socialisti della nazionalizzazione sotto il controllo dei lavoratori, delle grandi imprese, della pianificazione democratica dell'economia, con i principi democratici di libertà, di uguaglianza in tutti i settori, tra uomo e donna, ma non soltanto, io parlerei proprio di uguaglianza universale, e l'abolizione poi delle classi, abbattendo il sistema capitalistico. E quindi È questo l'unico modo in cui l'Iran può resistere all'aggressione imperialista, cacciando il regime teocratico e procedendo verso lo sviluppo di una forma organizzativa sociale più civile, più razionale, più giusta, più equa. È solo il socialismo. Non c'è scià che tenga, lo scià è reazionario. Non ci sono regimi democratico borghesi, liberali che tengano. C'è solo, deve esistere per voi e per noi, solo la democrazia socialista. Grazie. Salve, grazie. Sì, volevo anch'io ringraziarvi innanzitutto per l'incontro e per le vostre testimonianze. È una domanda molto, molto diretta e ci tengo davvero che possiate rispondere in modo sincero, perché penso ci possa aiutare anche a capire qual è la situazione in Iran oggi. Mi chiedevo, ovviamente noi, ma credo tutta la sinistra globale, ovviamente contro gli attacchi americani, israeliani di oggi e passati, però mi è capitato, lo dico sinceramente, di parlare con degli amici iraniani, persone che sono là, persone che sono qua, che non sono magari particolarmente politicizzati o dei militanti, che mi hanno detto sì, è brutto questo, però vediamo che succede, però insomma magari potrebbe anche aiutare a buttare giù il regime questa cosa, che non è la mia posizione, ovviamente, lo ribadisco. E però appunto volevo chiedere a voi di raccontarci per favore qual è, al di là della destra, estrema destra, che non mi interessa, ma qual è la percezione nelle masse popolari veramente rispetto a questi attacchi. Noi oggi in TV, nei nostri media occidentali, che sono ovviamente non corrispondono alla verità, sono i media borghesi, eccetera, eccetera, si facevano vedere folle che festeggiavano, eccetera, eccetera, e non credo a quello, però effettivamente mi è capitato di parlare con della gente comune, degli iraniani comuni, che mi hanno detto sinceramente che quando stai affondando non guardi francamente di chi ha la mano che ti tira su, hanno usato esattamente questa espressione, quindi vi chiederei se potete spiegarci e raccontarci un po' qual è la percezione rispetto a questo tema. Grazie. Andiamo alle repliche, in senso contrario. Quando passerà meglio, faccio un intervento di 2 minuti. No, ma tu fai le ultime 2 minuti. Dopo. Prima io, come all'incontrario. Prima rispondo io, poi ci fai tu. Se posso dire. Inizio infatti dall'ultima domanda, perché è importante. Noi siamo di fronte a un regime che per 50 anni, cioè questo regime per 50 anni ha oppresso tutte le tipologie di organizzazione dentro l'Iran, ma anche nel regime dello Shah era lo stesso, cioè c'era un partito solo che era Rastakhiz, che aveva creato lo Shah stesso. Quindi in una società come questa, dove non c'è stata una politica per davvero, cioè non ci sono stati partiti, non ci sono stati organizzazioni, non ci sono stati media liberi, cioè giornali, i giornali, niente. Quindi la gente un po' apoliticizzato, non so se lo dico giusto, correttamente, però apoliticizzato, cioè non conosce la politica come magari conosce una persona media in Italia, anche. Specialmente politica internazionale. Specialmente politica internazionale. Cioè, se adesso c'era una cosa interessante, è successa una cosa interessante su Twitter questi giorni. Tra chi supporta Pahlavi, cioè il figlio dello Shah, è solito dire le cose contro la sinistra, perché pensano che la sinistra era colpevole di rovesciare il regime dello Shah. Però c'era un test di political compass, cioè per capire la posizione politica che ognuno ha. Tantissimi di questi come si dice, tantissimi di questi monarchici hanno fatto lo test e è uscito che sono di sinistra, infatti. Quindi non esiste questa conoscenza della politica in Iran come esiste altrove. Questo che vediamo, che esistono persone che vedono un intervento militare come l'unica salvezza, e infatti il frutto di tutti questi anni di tirannia, cioè censura, di censura, repressione, di tirannia, cioè lo vedono come l'unico modo, che non è vero, cioè, io non lo condivido, però per spiegare come vedono loro, cioè, lo vedono così, perché non conoscono altri modi di liberazione, cioè l'organizzazione e tutto. E per rispondere all'altro compagno che ha chiesto di partiti, no, non esistono partiti adesso. Esistono partiti, quelli vecchi, che erano al tempo dello Shah, ma adesso sono di 3-4 persone, quelli in esilio, diciamo. In Iran, fino a magari 10 anni fa, la gente credeva che fosse possibile un cambiamento dentro il regime, cioè con i riformisti. Ma dopo le proteste del 2019, quindi è successo che la gente ha perso speranza anche di riformisti. Man mano è iniziato questa voglia di superare il regime. Però comunque, anche in questa situazione, abbiamo persone che si stanno mobilitando, gli studenti soprattutto, gli studenti e i lavoratori di meno, però gli studenti sì, e stanno creando reti, stanno creando gruppi per creare una sorta di resistenza, magari non armata adesso, però chissà di futuro con questa situazione. Però dall'altra parte abbiamo i media che fanno propaganda, come dicevo prima. L'unica cosa, per riferirmi alla domanda di Ilaria, l'unica cosa che magari dobbiamo fare noi, o magari dovete fare voi, è non credere al propaganda. Cioè quello che magari dicono, che il figlio dello Shah è l'unica alternativa per superare il regime, quello non è assolutamente vero. Sì, infatti, e non solo, cioè dappertutto si dice che questo qui è l'unica alternativa per superare il regime, ma no. Cioè, ci sono anche gruppi che si stanno formando fuori dall'Iran, i repubblicani, quelli di sinistra, i liberali e tutto, e quello lì non è l'unica alternativa per niente, però con l'aiuto di propaganda dei media si sta facendo vedere che è solo lui. E non so se vuoi aggiungere qualcosa. Forse prima parte. Ok. در جواب همین دوستمون که سوال آخر پرسید، چیزی که میخوام بگم این استش که خب این که آدم ها 50 سال در یک سیستم توتالیتر زندگی بکنند، مدل ساختار فکری براشون ایجاد میکنه و وقتی که از ایران میان بیرون الزاماً این ساختار یک هوی عوض نمیشه، اینا باید یه مقدار روی خودشون کار بکنن، ولی خب حالا به هر شرایط و دلیلی این کار رو انجام نمیدن، این کار درونی رو انجام نمیدن. Lei dice che chi ha vissuto magari 50 anni in un sistema totalitario, all'improvviso non può cambiare la visione. Cioè, anche se esce dall'Iran e viene in un paese democratico, all'improvviso non può cambiare la visione la sua visione magari... la sua visione persiste anche dopo. الان هم حتی مثلا با طرفدارایی که طرفدارای پهلوی داریم میبینیم این هستش که خب طرفدار یک سیستمی هستن که از پدر به پسر میرسه و کلا خود همین سیستم یک سیستم دینی هستش، یک انتقال قدرت دینی هستش، همونطوری که حالا مثلا توی اسلام دیدیم. با اینکه خیلی از ایرانی‌ها خودشون رو اصلا آدم‌های مذهبی نمی‌دونن، کسایی که حالا از ایران خارج شدن، ولی کماکان با همون سیستم فکر می‌کنن، چون اون پرسش‌های درونی رو انجام نمی‌دن. Ad esempio il sistema in cui alcuni credono, cioè il sistema di successione da un re al figlio, è un sistema praticamente religioso. Come esisteva anche in Islam, cioè un imam quando moriva era il figlio che diventava imam. Questi iraniani, anche se non si considerano religiosi, credono ancora in questi sistemi che vengono appunto dalla religione. در نتیجه وقتی که آدم ها از ایران میان بیرون باید روی خودشون کار بکنن و خب طبیعتا باید اطلاعات بگیرن و خودشون آموزش بدن، ولی خب به هر دلیلی اتفاق نمیفته. و خب شما اگر با یک ایرانی مواجه میشین که اینطوری فکر میکنه یا فکر میکنه که حالا جنگ آزادی میاره یا هر چیزی، یک مقدار باید مسئله رو حالا تو بُعدهای مختلف نگاه بکنین، حتی اینکه خب مثلا این آدم چقدر از وقتی که از ایران اومده بیرون فرصت و توانایی رو داشته که روی خودش کار بکنه یا اون فکراشو بازبینی بکنه. Poi in questo sistema uno si deve istruire e si deve informare da solo. E non tutti lo fanno. E quando voi siete di fronte a queste persone dovete vedere da tutte le dimensioni perché la sta pensando così. و بعد نکته دیگه که وجود داره این هستش که ما در نهایت جلوی روند تاریخ رو نمیتونیم بگیریم. اگر آدم ها، ایرانی ها در نهایت تصمیم بگیرن که بر فرض مثال پسر شاه بیاد و بر حالا مسند قدرت بشینه، ما جلوی اینو نمیتونیم بگیریم. ولی اون چیزی که مهم هست این هستش که مسئولیت خودمون رو فراموش نکنیم، یعنی هم از خودمون شروع بکنیم و همون مسئولیت هایی که در واقع مسئولیت های سیاسی که برای خودمون در نظر میگیریم رو کماکان ادامه بدیم. جنبش های اجتماعی یا حالا مثلا جنبش زن زندگی آزادی که ما در مورد صحبت میکنیم یا کار میکنیم صرفا محدود به این مقطع زمانی نمیشه. Noi non possiamo fermare la storia. Se la gente decide di dare il potere al figlio dello Shah, noi dobbiamo accettare la nostra responsabilità e continuare a lottare per donna, vita, libertà e per i diritti fondamentali, giusto? E le nostre attività non cadono solo in questo periodo, ci saranno dopo come c'erano anche prima. Okay. Ah, vuoi ancora dire qualcosa? Io sul dico una cosa perché parlando sempre di teoria e come si comporta la gente, perché non è che la gente segue una teoria, cioè la lotta purtroppo ogni condizione è particolare. Anche riguardando l'ultima domanda, io lo vedo così che c'è, scusatemi, sono un attimino perso. Scusate, vado su un'altra domanda, dopo forse torno di nuovo qua. Sulle sanzioni, parlo delle sanzioni. Cioè, noi, anch'io sono stato un periodo quando ero in Iran. Per un certo periodo pensavo che, va bene, c'è un regime che ci sta facendo repressione, stiamo parlando di 20 anni fa, allora forse le sanzioni ci aiutano. Invece abbiamo visto che sempre hanno portato più povertà, e dal più povertà non siamo, cioè non, povertà non ha portato nulla buona per il popolo. Cioè, qua sulle sanzioni abbiamo visto anche, cioè, più che hanno fatto negli ultimi mesi, hanno fatto più sanzioni su Iran e anche hanno bloccato altri paesi da acquistare petrolio da Iran. Questo ha causato questo inflazione pazzesco che non era senza precedenza in Iran negli ultimi 5-4 mesi, che ha portato questo movimento, un movimento cominciato da assoluta povertà, che abbiamo visto che purtroppo è più inclinato verso estrema destra, verso destra, anziché verso sinistra. Ci sono, non dico che tutti sono, ma la mano più forte, il mano più forte ce l'ha la parte destra adesso dentro questo. Anche qua volevo dire questo sull'ultima domanda, che noi molte volte pensiamo che, cioè, almeno molte teorie dicono che così, che quando aumenta la tirannia, quando aumenta la povertà, quando aumenta la repressione, la gente diventa, aumenta come risultato anche l'unità del popolo, anche consapevolezza sociale e politica aumenta. Non è necessariamente così, purtroppo non è così. Molte volte la repressione porta la gente a un, vari parti del popolo, cioè non vorrei generalizzare tutto il popolo, una situazione che dall'assoluta disperazione vanno a anche tifare criminali di guerra come Netanyahu. È ciò che stiamo vedendo in Iran, è ciò che anche una parte del popolo palestinese sta subendo. Anche loro pensano che non può essere che la vita sia così, così cattiva, così brutta. Di sicuro dovrebbe essere un potere che è buona, ma non è così. Cioè, purtroppo non c'è, tutti i poteri fanno schifo, tutti sono criminali, tutti i poteri del mondo. Quindi purtroppo è così. Cioè, anche la gente dell'Iran, quelli che lei diceva giustamente, che molti adesso dicono che magari questa guerra ci aiuta, è giusto, non solo la loro percentuale. Anche noi stupiamo quando vediamo alcuni dei nostri amici, non erano di sinistra né di destra, ma adesso hanno speranza, dall'assoluta disperazione dicono che magari questa un po' ci porterà a una situazione migliore. Purtroppo è così la situazione. Scusate che mi sono dilungato. Se posso aggiungere una sola cosa riguardo alle sanzioni. Quello che ha detto Behrouz, secondo me vale per le sanzioni generiche, tipo l'export di petrolio, però magari le sanzioni mirate alle persone coinvolte nelle uccisioni, magari quello sì, cosa aiuterebbe. Sì. Allora, su sollecitazione del proprietario padrone cosa dovrò essere, cercare di fare una cosa che per me è molto difficile, cioè essere breve. Cercherò di essere breve. Allora, ma intanto credo che ci sia un punto che poi si ricongiunge anche, secondo me, alle sanzioni, e cioè il fatto che quando noi diciamo ci poniamo un terreno di difesa, e lì il mio amico sbaglia quando si pone su un terreno un po' di disfattismo bilaterale, perché anche l'Iran è una potenza regionale, ad ogni modo è una potenza regionale, non internazionale. C'è un aspetto che noi non dobbiamo dimenticare, non c'è solo l'aspetto dell'Iran, c'è l'aspetto mondiale. Il successo degli Stati Uniti non è solo una sconfitta per il popolo iraniano, e bla bla, un possibile successo degli Stati Uniti, è una sconfitta per il movimento operaio mondiale, perché significa che domani rifaranno queste cose e li rifaranno magari verso governi progressisti. Ad ogni modo, ci fosse una rivoluzione, diciamo il paese dove il marxismo rivoluzionario oggi è più forte, in Argentina, e questi si sono abituati, se non hanno posizione di massa, ti bombardano la casa rosada diventata rossa, cioè con la rivoluzione, ecco, per fare un esempio, scusatemi. Cioè, è effettivamente questo. Se vincono contro l'Iran, Netanyahu e i sionisti si sentiranno più liberi di poter ancora di più, sembra difficile dire ancora di più perché sono arrivati a livelli inenarrabili, opprimere i palestinesi e gli altri paesi. Al di là che partecipino o meno, gli arabi, scusate, l'Arabia Saudita, si sentiranno più forti. In questo senso noi non possiamo tenere conto, a differenza della persona comune, che io lo capisco, dice, beh, dopo 50 anni di questi qua, vabbè, vediamo se magari con i bombardamenti è... Noi dobbiamo avere un'ottica da internazionalisti. Loro che ce l'hanno, mi pare, noi che ce l'abbiamo, e tutti, non da italiani, da iraniani, da curdi, eccetera, eccetera, ma un'ottica internazionalista. Il rafforzamento dell'imperialismo è sempre una questione negativa. Questo non significa passare con i campisti a dire quindi mi va bene quel regime. Lì l'errore illogico, reazionario, diciamo, dei campisti su questo terreno, è sempre avere, secondo noi, una attitudine netta nei confronti della lotta tra le grandi potenze, per cui se un domani ci fosse uno scontro tra Stati Uniti e Cina o tra Stati Uniti e Russia in maniera diretta, noi saremmo come Lenin per il disfattismo rivoluzionario, perché questo è il terreno. Oppure tra paesi anche locali, credo che noi fummo tra i pochi, noi vecchi ce lo possiamo ricordare, nel 1980, quando ci fu la guerra tra Iran e Iraq, a dire, a differenza di chi dicevano, ah, bisogna difendere la rivoluzione iraniana. Quale rivoluzione? Era già cominciata la controrivoluzione, perché c'è stata una rivoluzione e la controrivoluzione comunista. Noi dicevamo, siamo per il disfattismo bilaterale in questa guerra. Tra l'altro poi si scoprì che gli americani davano le armi per interessi loro anche all'Iran, mica solo all'Iraq. Quindi tutto questo concetto che erano gli americani che volevano abbattere, certo avrebbero avuto piacere che crollasse, ma non possiamo partire solo da quello. In questo senso anche la questione delle sanzioni, sono d'accordo con quello che hanno detto i compagni, perfetto, cioè, perché poi non colpisce, cioè, il vero obiettivo, e può rafforzare l'imperialismo. Per questo sull'Ucraina, noi che siamo per la difesa dell'Ucraina, siamo contro le sanzioni. Uno può dire contraddittorio, no, è dialettico, non lo chiamiamo, lo diciamo così, perché non è con quella la via, e tra l'altro in quel caso è anche uno strumento che probabilmente rafforza il putinismo in Russia. Perché uno dice, non c'ho meno burro, per dire, perché c'ho le sanzioni degli americani, allora bene, stringiamoci a corte, viva la patria. In Iran non è così, perché la cosa dopo, io credo, penso dopo la cosa di Khatami, quando è finita l'illusione, Khatami è stato il presidente cosiddetto riformista per 8 anni, no, mi pare, o 6 anni, 8 anni, all'inizio di questo nostro secolo, è fallito il riformismo e la gente dice, guarda, ha preso, come dite voi, perso le illusioni riformiste. Quindi queste sono le cose. E poi sono anche molto d'accordo, veramente vado a concludere, poi lascio 2 minuti a Natale, quello che dicono i compagni sulla questione anche sociale, perché noi da marxisti non dobbiamo mai dimenticarci la questione sociale. La differenza è esattamente che questo movimento nasce dai bazari, che erano stati sempre un sostegno del regime. Oggi, e questo quindi anche marca, io non credo che ci deve portare a dire che è un movimento reazionario. Per esempio noi nell'89 nei movimenti dialettici c'erano anche tanti operai che volevano basta con questi burocrati, però noi vedevamo in questo elementi reazionari, un fatto reazionario perché apriva la strada al capitalismo e all'imperialismo. Quindi il fatto è quello prevalente. Io non credo che siamo a questo in Iran, ma credo che anche, penso, questa è una mia idea, che la durezza della repressione sia anche legata al fatto che il regime dice ui, qui se non blocchiamo perdiamo pure il nostro sostegno sociale, e che non può essere solo, è vero che uno Stato a capitalismo di Stato, o meglio capitalismo militare, per riguardo alla rivoluzione hanno un fottio di controllo e via dicendo. Quindi io credo che noi dobbiamo sapere queste situazioni, dobbiamo sperare che, come è successo in qualche altra occasione, è difficile. Certo, i bolscevichi esistevano da decenni, quello è il guaio, come dice giustamente il compagno Natale. Però che la tradizione, mai molto lontana, delle shoras, cioè i consigli, possa aver mantenuto. Tra l'altro i compagni, li cito ancora una volta, che sono dispersi, adesso ce ne saranno 20 divisi in 10 paesi del mondo, i sopravvissuti, del Partito Socialista dei lavoratori iraniani, che poi non è mai stato mai di più di mille, e forse anche un po' meno, ma avevano una certa presenza nelle shoras, difesero le shoras operaie dalla islamizzazione. E tra l'altro fu, io lo dico qui adesso, voglio aprire un dibattito verso altre forze che non ci sono qui, ma quando gli antesignani, quella che in Italia è sinistra alternativa, ruppero i rapporti con questi compagni dicendo siete settari, non si può essere contro l'islamizzazione delle shoras, invece che era il modo per far cadere, cioè mettere il controllo del regime nascente controrivoluzionario degli Ayatollah sull'indipendenza di classe. Io adesso non so cosa è rimasto di questa tradizione, non posso dirlo, vedranno i compagni, ma spero che questa sia la via da cui rinasca un movimento operaio, e tramite questo, magari anche col ritorno di qualche vecchio compagno dall'esilio, possa rinascere un partito marxista rivoluzionario. Dico solo una cosa per concludere, veramente dico questa. Con questa cosa, poi mi piacerebbe, però perché credo che dovremmo rimettere in opuscolo il testo di bilancio degli anni Ottanta e dei nostri compagni iraniani del Partito Socialista dei Lavoratori. Il loro giudizio, forse un po' semplificato, dire poteva vincere la sinistra, ma il problema è che la maggioranza a sinistra, Tudeh, Fedain maggioranza e altri, hanno detto no, non possiamo contestare la direzione di Khomeini. Cioè bisogna non solo che rinasca una sinistra, ma che rinasca una sinistra che dica non facciamo il fronte nazionale con il magari domani con lo Shah, non appare questo. Ah, una cosa, in Italia siamo però messi peggio di altre cose, perché io so che in Francia, a Parigi, li hanno cacciati dalle manifestazioni, almeno così mi è stato detto, spero che sia vero. In Italia purtroppo c'è un dominio monarchico per vari motivi, in Francia c'è più presenza di Mujahideen, al di là dei limiti Mujahideen, per cui lì i monarchici sono presenti, ma sono meno forti che purtroppo qui in Italia, per cui li vediamo e amen, dobbiamo fare una battaglia accanto a voi. Grazie e vi ringrazio. Ivo, noi dobbiamo sottolineare in questo momento che gli Ayatollah, i Bagdaran e i Basiji, probabilmente mentre noi parliamo qua, stanno arrestando decine, se non centinaia, di donne e uomini. E... Ma questo purtroppo ogni regime succede, ma noi abbiamo avuto dei compagni, beh, certo molto meno, arrestati o licenziati per la loro linea di classe in Venezuela. Purtroppo è così, finché non abbiamo, non possiamo, vuol dire che non li difendiamo? Vuol dire che li difendiamo, ma non può essere, Ivo, non può essere secondo noi il dato di partenza fondamentale in una situazione come quella iraniana, in cui vedremo, perché secondo me tra l'altro mentre Israele vorrebbe lo Shah, come hai detto anche tu giustamente, non mi ricordo chi di voi due, Oggi gli americani vorrebbero la soluzione venezuelana, perché non si fidano di quello là. Grazie. Comunque, l'ultima cosa, i popoli del mondo si muovono, però si scontrano tutti sempre con un problema, che sono costantemente sprovvisti di direzioni rivoluzionarie conseguenti. E la fine sarà la stessa del 50, del 79. Se non si costruisce una direzione politica di tipo leninista, sicuramente non si arriverà da nessuna parte, perché soltanto un partito conseguente in questa fase può risolvere i problemi dell'Iran, dei popoli in via di sviluppo e del capitalismo occidentale e orientale. Senza partito non si arriva da nessuna parte. Chiaro, qual è il guaio? Che manca tutto, manca l'internazionale, mancano i partiti. Qui noi discutiamo, ridiscutiamo, discutiamo ancora, però stranamente una sintesi che ci permetterebbe di trovare un punto d'incontro non riusciamo a farla. Quindi, a buon intenditor, poche parole, discutiamo, discutiamo, discutiamo e vediamoci incontro.